Quasi le 13:30, sempre 87-900 in FM, Radio Onda Rossa. Dunque, abbiamo in linea un compagno di Torino, di Radio Blackout, con cui insomma possiamo così fare un po' un quadro generale su inizialmente quanto è accaduto oggi nella città torinese. Ciao a tutti, intanto grazie per fare da ponte per Torino. Beh, da Torino un corteo abbastanza animato, partito uno da Piazza Arbarello, quello studentesco, l'altro poi che poi si è andato a unire a quello a Porta Nuova degli operai, e subito alle 10:30 il corteo, quello partito appunto da Piazza Arbarello, cioè degli studenti, occupa simbolicamente il palazzo del Dipartimento dell'Economia e della Finanza, l'assessorato delle politiche urbanistiche di Torino, quindi partiamo proprio degli spediti, e alle 10:40 c'è un lancio di uova invece sul palazzo dell'Agenzia delle Entrate. E successivamente il corteo va avanti e intorno alle 11:05 un gruppo di circa 300-400 persone si sgancia e tramite un altro corso, Corso Inghilterra, va e prova ad avvicinarsi al palazzo della provincia, però partono le prime cariche, quindi intorno alle 11 partono le prime cariche, ma di risposta gli altri manifestanti del corteo principale riescono a entrare sempre lì intorno alle 11 nel cantiere del grattacielo della compagnia San Paolo, che era difeso da un camion idrante che provava a respingere, ma non è riuscito, tanto che intorno alle 11 passate un manifestante è riuscito ad arrampicarsi sulle gru del cantiere e mettere una bandiera no TAV. Pare però questo compagno sia stato poi messo in stato di fermo perché è stato preso, e mentre la gente cercava di uscire la polizia cerca di spezzare un corteo che poi si è ricomposto comunque tramite lacrimogeni e piccole cariche. E dopodiché c'è stato intorno alle 11:30 il ricongiungimento dei due spezzoni, come dicevamo, quello studentesco e quello degli operai, che ha evolto poi in piazza Castello. Però strada facendo il portone del palazzo della provincia cade e i manifestanti entrano dentro, quindi siamo riusciti a entrare dentro il palazzo, ma proprio fisicamente proprio dentro il palazzo della provincia, vengono tolte le bandiere, vengono messe di nuovo bandiere no TAV, vengono spostate un po' di cose, tipo qualche scrivania viene messa nel cortile, così giusto per farglielo pesare un po'. E torno alle 12:45 le forze dell'ordine però incominciano a dire noi non ci stiamo e incominciano a fermare gente a random che passa per andare proprio lì, quindi tra via Maria Vittoria e via Carlo Alberto, che è la strada che porta al palazzo. E di risposta i ragazzi quando se ne vanno intorno pochi minuti fa, 20 minuti fa, fanno una nuova occupazione in corso Farini 20, ora aperta agli studenti, quindi una nuova occupazione studentesca a Torino. Per il momento adesso siamo in attesa di nuovi aggiornamenti. Perfetto, beh insomma ci è stato davvero, davvero comodo avere questo quadro riepilogativo di una giornata insomma molto densa lì a Torino, così come insomma molto importante quello che è accaduto questa notte in valle. Tu hai avuto comunque modo di seguirlo, quindi sì, puoi... Sì, ieri sera sono arrivate queste fantomatiche trivelle di carotaggi a Susa e quindi i notavi si sono incontrati intorno alle 6 per poi volgere a fare un giro intorno lì per vedere che era un ennesimo carotaggio di quelli fantasma che fanno per far vedere che stanno finendo i preparativi dei lavori, quindi carotaggi per fare gli ultimi studi sul terreno lavorare, quei carotaggi fantasma che c'erano già stati 2 anni fa che dovrebbero durare fittiziamente veramente dai 2-3 giorni, perché per raccogliere tot metri di carota, diciamo, e non si sa perché durano mezza giornata. Le magie. E quindi è stato un ennesimo carotaggio fantasma. In OTAV intorno alle 22 si sono ritrovati nella stazione di Chianocco, dove era sempre stati fatti blocchi a febbraio, e nuovamente anche ieri sono stati bloccati le due statali a Singhiozzo e l'autostrada con delle barricate che vengono date alle fiamme. Quindi fino a notte fonda l'autostrada con barricate in fiamme e le statali bloccate dai notav, che poi piano piano durante la notte hanno deciso di lasciare lì le barricate e rientrare nelle proprie case, anche perché oggi c'è un nuovo incontro intorno alle 6. Benissimo, vabbè, al solito insomma non si fanno mai smentire le invocazioni di una ulteriore militarizzazione insomma di quel territorio. Si invocava l'esercito questa mattina perché la situazione sarebbe ormai incontrollabile, insomma. Sì, loro invocano l'esercito ormai da un po', in modo da poter fare la zona militare che loro pensano che pura zona militare, dove i manifestanti non potrebbero nemmeno avvicinarsi, se non rischierebbero l'arresto immediato, se non dopo i soliti due avvertimenti di essere pure tirati, così fucilati a random. Ma tanto noi non ci spaventiamo, noi continueremo ad andare, continueremo a tagliargli le reti che loro mettono, non ci fermeremo sicuramente. Assolutamente, a maggior ragione, perché insomma ormai sembra che questo progetto di alta velocità stia a cuore solo ai potentati italiani, al governo italiano. E anche la Francia continua a dichiarare che è quasi perfettamente inutile, solo noi, solo gli alti capoccioni dell'Italia che sono lassù decidono e continuano a ostinarsi di volere questo progetto, ovviamente per il classico magna magna che si può fare con lo stato mafioso italiano. Va benissimo, vabbè, speriamo che mangerà bene chi mangerà ultimo, insomma. Va bene, allora, grazie mille per questa corrispondenza e poi vabbè ci si sente in futuro. Ciao. Ci sentiamo per nuovi aggiornamenti. Ciao.